Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Non è stata proprio una gran settimana, ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a Mebius, buona Pasqua a tutti voi. Ascoltiamo i titoli di questa puntata, nella quale, come sentirete, ci occuperemo coerentemente con la nostra trasmissione di alcuni aspetti molto tecnici della ricostruzione che si dovrà affrontare nelle zone terremotate. I titoli allora. Craniologia da strapazzo, seconda puntata. L'America del primo Novecento e l'intelligenza degli immigrati. La fiera delle sanità è il titolo di un libro inchiesta sulla sanità italiana. Cerchiamo di capire come, in una situazione difficile, si può fare ricerca. Come si costruisce un edificio antisismico e come si fa a rendere antisismici quelli esistenti. Ragioniamo sulle possibilità concrete per una valida ricostruzione dopo il terremoto. Un pulcino che sa contare ed è in grado di compiere semplici operazioni aritmetiche. Sembrava un pesce d'aprile, anche perché è stata pubblicata il 1 aprile 2009. Invece è tutto vero. Scoperto un segnale emanato dalla misteriosa materia oscura, ma potrebbe anche trattarsi di una pulsar. È così che funziona la scienza. Un progetto Wiki per l'energia lo propone Rajan Gupta, fisico dei laboratori di Los Alamos, negli Stati Uniti. Seconda puntata su quegli anni folli, sono stati anche tanti nei quali si voleva misurare l'intelligenza. La scorsa settimana si è parlato di misure dei cervelli con le donne che l'avevano come le scimmie. Adesso tocca al quoziente di intelligenza ed è sempre Maurizio Melis che vi racconta queste storie. È mattina quando il transatlantico arriva in vista del porto. La prima sagoma che emerge dalla nebbia è una figura alta quasi 100 metri che regge col braccio teso una fiaccola. La si scorge appena quando tra i poveracci, che per due settimane sono vissuti ammassati nel ventre del transatlantico, tra sacchi e valigie di cartone si sparge la voce ed ecco che si leva una babele di voci. «L'America!» gridano. Italiani, tedeschi, ebrei, polacchi, irlandesi, tutti ugualmente sfiniti dal viaggio. Disorientati e impauriti da un paese che non conoscono, una lingua che non capiscono, un futuro incerto. Sono venuti in America spinti dalla fame e dalla disperazione, ma prima di mettere piede sul continente li attende una sosta su una piccola isola appena fuori dal porto di New York. È Ellis Island, dove l'immigrazione americana sbriga le pratiche necessarie prima di consentire o di negare l'ingresso negli Stati Uniti. È il 1913 e per la prima volta ai consueti controlli se ne aggiunge uno nuovo. Si materializza sotto forma di una signorina, armata di fogli di carta e matita, molto cordiale. Prende da parte alcuni immigrati, li fa sedere e chiede loro di rispondere ad alcune domande, di tracciare dei disegni a matita. Molti di loro non ne avevano mai tenuta in mano una. Fu così che 35 immigrati ebrei, 22 ungheresi, 50 italiani e 45 russi vengono sottoposti a un test, messo a punto dal francese Alfred Binet per identificare i bambini leggermente ritardati al fine di aiutarli a recuperare. L'idea è di Harry Goddard, psicologo ed eugenetista americano. A differenza dello stesso Binet, di cui distorce le intenzioni e le finalità del test, egli era fermamente convinto che l'intelligenza fosse un'entità ben precisa e misurabile, ma soprattutto ereditaria, innata, quindi sostanzialmente immutabile. Non solo, Goddard era convinto, e come lui molti intellettuali dell'epoca, che ogni male della società, dal crimine alla prostituzione alla semplice povertà, quindi compresa quella degli immigrati, fosse di fatto causato da debolezza mentale. Tuttavia, i risultati del primo tentativo di misurare il QI, il quoziente di intelligenza, nel primo campione di immigrati sorprendono lo stesso Goddard. Oltre l'80% del campione mostra un'età inferiore ai 12 anni. Insomma, mezzi imbecilli questi immigrati. Il dubbio che il test potesse essere sbagliato, che misurasse non l'intelligenza innata, ma solo la familiarità con la lingua, con la cultura americana, lo sfiora appena. Moron battezza Goddard questi uomini, scemi ma non troppo. Per i moron, sostiene, non c'è scuola che tenga, sono irrecuperabili, per loro ci sono solo due ipotesi. Confinarli in colonie o sterilizzarli. In ogni caso bisogna impedire loro di riprodursi. è l'inizio di una parabola dagli effetti devastanti. Sulla stessa linea di Goddard, Lewis Terman, collega di Goddard, teorizza una tecnocrazia dell'innatismo. Tutti, non solo gli immigrati, dovevano essere testati e indirizzati, a seconda dei risultati ottenuti, a diversi mestieri. Mezz'ora e 5 test potevano segnare un bambino per la vita, ma per Terman si trattava solo di dare una mano alla natura che aveva già fatto il grosso del lavoro. È il posto occupato dalle cosiddette classi inferiori nella scala sociale e industriale il risultato della loro inferiore dotazione innata? Questo si chiedeva Terman, ma già conosceva la risposta. Tale era la fede di Terman nell'innatismo dell'intelligenza che si spinse persino a calcolare il QI di eminenti personalità del passato sulla base della loro biografia in giovane età. Chi ne aveva poca, magari perché veniva da una famiglia umile, finiva per vedersi affibbiati punteggi al limite della normalità. Faraday risultò a malapena normale. Shakespeare, che di biografia precoce proprio non ne aveva, rischiava di finire tra i moron. Mentre sottoposto a test, finì tra i moron anche il sindaco di Boston, che, insomma, essendo ancora in vita, non la prese altrettanto bene. Robert Yerkes, un altro protagonista di questa epoca folle, riuscì a convincere il governo a sottoporre a test tutte le nuove leve e nel corso della Prima Guerra Mondiale presiedette alla somministrazione di 1.750.000 test. Per l'occasione furono messi a punto dei test scritti, test a dir poco improbabili, assurdi. Il risultato fu sconvolgente. Metà della popolazione americana risultava subnormale. Di fronte a una tale catombe iniziò a vacillare persino la fede nel sistema politico. Come poteva la democrazia sopravvivere a cotanta irrimediabile stupidità? Che dire, Terman, Goddard e altri eugenetisti ritrattarono alla fine, ma quando ormai era troppo tardi. Il governo, preoccupato dai risultati dei test, aveva nel frattempo posto severe quote all'immigrazione. Milioni di ebrei, in fuga dall'Europa dove nubi oscure si stavano addensando in quegli anni, furono rispediti indietro. Sappiamo tutti come andò a finire. La Fiera delle Sanità è il titolo di un libro. Potremmo dire che con questo libro facciamo poker. Negli ultimi 2 anni sono usciti nel nostro paese 4 viaggi di inchiesta verso i problemi più importanti. Abbiamo incominciato con gli apparati politici, poi le tasse, poi la grande inchiesta sulla Camorra. Non sto a ricordare gli autori perché sennò perdiamo tempo. Esce La Fiera delle Sanità, inchiesta realizzata da Daniela Minerva. Ciao Daniela. Ciao, buonasera a tutti. Ci diamo del tu perché sei una giornalista dell'Espresso e da anni per l'Espresso curi tutti i problemi che riguardano la medicina e la sanità nel nostro paese. Allora, questo La Fiera delle Sanità fa un grande viaggio nella sanità italiana, trovando tante cose che effettivamente non funzionano bene. Naturalmente nella nostra trasmissione non entriamo negli aspetti di tipo sociologico, politico, amministrativo delle cose. Quello che ci interessa è capire come questo si può riflettere sulla ricerca scientifica. Allora Daniela, prima cosa, dacci brevemente in sintesi che cosa vuol dire fare ricerca scientifica in campo medico e come questo entra in relazione con le strutture ospedaliere, con i presidi ospedalieri. Sì, perché noi spesso quando parliamo di scienza medica parliamo di scienza di base, quindi di scoperte fatte in laboratorio, dimenticando che la stragrande maggioranza della ricerca in medicina è ricerca clinica, perché tutto quello che viene scoperto in laboratorio poi deve essere in un qualche modo provato e messo a disposizione dei malati. E quindi la vera ricerca, la grande ricerca in medicina è la ricerca clinica, che si fa ovviamente negli ospedali e si avvale del fatto che la nostra è una sanità pubblica, è una sanità forte, una sanità molto strutturata e questo mette a disposizione della ricerca un numero straordinario di casi su cui fare ovviamente la pianificazione della ricerca clinica e su cui portare avanti gli studi sui vari farmaci, sulle varie terapie, sulle varie tipi di chirurgie, insomma su tutto quello che è la medicina e che purtroppo non si può fare certamente in laboratorio. Perché è vero, da una parte nel libro tu dici che noi abbiamo dei potenziali molto interessanti rispetto ad altri paesi come struttura, come organizzazione teorica del sistema sanitario. Poi dopo vediamo, leggendo la tua inchiesta, che ci sono veramente tante cose che non vanno. Allora io ti chiedo, noi di fatto siamo lontani da poter fare quella ricerca che potremmo fare? Beh, dobbiamo dire senz'altro che noi siamo abbastanza bravi, nonostante tutto, e sottolineo nonostante tutto, perché in realtà molte situazioni da cui potrebbe venire forse una delle migliori ricerche del mondo invece sono allo sbando. Cominciamo a parlare degli IRCCS, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono 43 in Italia, ma di questi non più di una quindicina fa scienza vera, cioè ha un numero di pubblicazioni decente, un impact factor altro, produce in un qualche modo linee guida e protocolli terapeutici originali, perché ci sono più di 20 IRCCS che non fanno ricerca scientifica pur chiamandosi istituti di ricerca, perché purtroppo l'etichetta di IRCCS è stata spesso data per convenienze locali, è stata spesso data per fare un favore a un certo professore che era magari un potente, è stata spesso data per appunto criteri più accademici, più clientelari che non veri criteri scientifici. Questo è un corno del problema, è un corno molto grave. L'altro corno è quello dei policlinici. Allora, i policlinici universitari sono per definizione i luoghi dove si dovrebbe fare ricerca clinica. Perché? Perché hanno come interfaccia l'università, hanno come interfaccia la ricerca, anche la ricerca di base importante che si fa nelle università. Ora, la gestione dei policlinici è in larghissima parte scriteriata, perché la legge non è chiara su chi debba comandare dentro un policlinico, attribuisce alcune funzioni alle università, altre alla regione a cui ovviamente è demandata l'assistenza attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, e nel non fare chiarezza lascia ampio spazio a che cosa? Ad esempio ai criteri dell'Accademia. È chiaro che i criteri dell'Accademia applicati al governo della sanità sono una follia, perché non hanno quel passo di modernità che è necessario a un contesto di questo genere. E in questo discorso certamente entra con tutti i piedi il problema del merito e il problema della qualità del lavoro scientifico / medico che viene fatto nei policlinici. Noi sappiamo che esiste una straordinaria coincidenza fra il cattivo lavoro scientifico fatto dentro un policlinico universitario e il numero di cattedratici con lo stesso nome, insomma diciamo la parentopoli che spesso le cronache hanno rilevato. Bene, quei policlinici sono anche quelli che dove si fa meno ricerca. Allora è evidente che esiste un problema di meritocrazia, esiste un problema di scegliere dentro policlinici migliori per convincere le aziende farmaceutiche a dare le molecole, perché senza molecole non si fa ricerca, ma le aziende farmaceutiche ovviamente le danno ai migliori. Per quale ragione un grande multinazionale dovrebbe dare la molecola a un policlinico squinternato che occupa soltanto fratelli e cugini e non per esempio a un grande policlinico in Francia o in Germania? Per loro è assolutamente uguale. Ricordo il titolo del tuo libro, La Fiera delle Sanità, edito da Burr, Daniela Minerva, giornalista dell'Espresso. Ciao Daniela e grazie per il tuo lavoro. Grazie e buonasera a tutti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Mi raccomando, pronti, pronte, perché sta arrivando il quiz. Non so se abbiamo avuto un quiz con una domanda tanto breve, comunque è la seguente: perché la gomma cancella la matita? Prima risposta, la gomma è di una sostanza relativamente acida e la grafite è grassa, tutto avviene a dimensioni molto piccole, ma di fatto ciò che accade è che la grafite della matita viene sciolta, ci scriverete acida. Seconda possibile risposta, la gomma, anche se magari la vedete colorata di rosso, di verde, poi quando l'ha passato una prima volta diventa bianca. Questo vuol dire che la gomma di fatto sbianca la grafite e la fa diventare del colore del foglio. Ci scriverete sbianca. Terza e ultima possibilità, il segno della grafite della matita, se lo osservate con un microscopio, è fatto di particelle nere che si attaccano alle fibre della carta. La gomma è appiccicosa e porta via queste particelle. Ci scriverete particelle. Ci scriverete come al solito al numero di SMS 349-238-6666. Che cosa si vince questa settimana? Il libro è La Fiera delle Sanità, scritto da Daniela Minerva, giornalista dell'Espresso, e edito da Burr. In collaborazione con IBS.it. Come vi dicevo in apertura di questa puntata, vogliamo interessarci del problema della ricostruzione dopo questo tremendo micidiale terremoto, e lo facciamo naturalmente, essendo noi una trasmissione di scienza, lo facciamo dal punto di vista il più possibilmente tecnico con i tempi che abbiamo a disposizione. Il nostro ospite questa sera è Guido Magenes. Buonasera Magenes. Buonasera. Professore associato di tecniche delle costruzioni all'Università di Pavia e responsabile della sezione murature e monumenti di EUCentre, che è un centro di ricerca e formazione in ingegneria sismica, un centro che si muove anche a livello europeo. Allora Magenes, noi vorremmo vedere con lei di affrontare un po' uno via l'altro alcuni aspetti proprio il più possibile tecnici, naturalmente senza internità eccessive, per quanto riguarda questo problema della ricostruzione. Però insomma ci sono anche delle domande che vengono immediate. Io vorrei partire proprio da una di queste. Per esempio, ci sono edifici vecchi che resistono. Come mai? Uscendo naturalmente dalla polemica, una volta si costruiva meglio. Però insomma, lì all'Aquila c'è una chiesa che si è fatta 3 terremoti. Adesso effettivamente il campanile se n'è andato giù. Però come mai questi possono resistere a scosse così frequenti e così durature nel tempo? Anche nel passato esisteva innanzitutto una diversa qualità nelle costruzioni. C'erano costruzioni di qualità migliore e costruzioni di qualità peggiore. Inoltre, diciamo che in alcune zone in cui esisteva una memoria storica del pericolo sismico, in generale si è sempre mantenuta una tradizione costruttiva abbastanza attenta appunto a questo problema, e quindi in generale, anche in assenza di criteri diciamo quantitativi, scientifici o ingegneristici come li concepiamo oggi, ma basandosi semplicemente sull'esperienza e su una conoscenza di tipo empirico, gli stessi costruttori seguivano alcune regole del buon costruire, che poi, se rispettate, garantivano un buon comportamento delle costruzioni. In generale, diciamo, nel passato c'erano costruzioni di qualità varia come oggi. Sì. Non a caso costruzioni di una certa importanza spesso venivano costruite con maggiori risorse e quindi anche con una maggiore attenzione magari a una serie di a questi aspetti, certo. Motivi, sì. Ecco, però altri edifici storici sono invece molto danneggiati. Si può fare qualcosa prima del terremoto, insomma, per mettere in condizione antisismica un edificio antico? Diciamo di sì, guardi, comunque in generale questo è il problema della riduzione del rischio sismico del patrimonio storico-architettonico, è uno dei problemi principali attualmente nel campo dell'ingegneria sismica. Problema in che senso? Innanzitutto c'è sempre un problema di risorse, ma non è solo quello. Le costruzioni storiche spesso sono costruzioni piuttosto complesse e cioè si va da costruzioni relativamente semplici a costruzioni piuttosto complesse di tipo monumentale, e quindi può non essere assolutamente banale e scontato capire qual è la tecnica migliore per rinforzare e consolidare questi edifici nei confronti del sisma. Ci sono alcune tecniche che si sa sono efficaci. Su altre tecniche ci sono pareri discordanti, comunque in ogni caso, per quel che riguarda gli elementi principali di vulnerabilità, cioè quali sono le situazioni in cui effettivamente può esserci un pericolo per la costruzione nel caso di terremoto, sono abbastanza chiari, e quindi semmai si tratta di individuare quali sono le tecniche e le strategie per eliminare questi elementi di vulnerabilità. Ecco. Andiamo agli edifici nuovi, i fondamentali le chiediamo, come vanno costruiti? Innanzitutto a me sembra un elemento importante per quel che riguarda il problema della resistenza al sisma, sia che fin dall'inizio, proprio dalla sua concezione complessiva, ci sia da parte del progettista una certa sensibilità nei confronti del problema sismico, cioè bisogna evitare quella dicotomia che a volte si trova, si è sempre avuta nel mondo professionale italiano, in cui c'è prima, non so, l'architetto o comunque qualcuno che disegna l'involucro secondo forme che possono essere ritenute più o meno, diciamo, interessanti per quel che riguarda questioni, o funzionali per quel che riguarda questioni che non hanno a che fare con la sicurezza statica o sismica dell'edificio, dopodiché il problema viene passato al cosiddetto strutturista o calcolatore, che si deve preoccupare di far stare in piedi la costruzione. Questa è una prima cosa da evitare. Poi adesso ci sono normative assolutamente, diciamo, aggiornate, che danno delle indicazioni abbastanza chiare su quali sono le strategie, le filosofie di progetto, eccetera. Quindi è opportuno che in generale i professionisti, i progettisti si aggiornino il più possibile per seguire queste metodologie di progetto. Certo. E per finire è estremamente importante il controllo della qualità della costruzione, dell'esecuzione. Sappiamo che spesso ci sono situazioni problematiche in cui poi magari anche se a livello progettuale erano state prescritte alcuni dettagli costruttivi e alcune soluzioni, poi di fatto nella realizzazione pratica in cantiere queste cose magari non vengono realizzate per mancanza di controlli, per assenza di scrupoli da parte di alcuni soggetti, e questo è sicuramente un problema che... È un problema tipicamente nostro paese. Le chiedo adesso, costa molto ad oggi fare un edificio antisismico, e quindi siccome invece dovremmo farne sempre di più, se si facessero tutti antisismici si avrebbe anche un effetto insomma di scala e i costi scenderebbero? Sì, indubbiamente. Allora distinguiamo sempre i due problemi: la progettazione dei nuovi edifici e diciamo il consolidamento degli edifici esistenti. Per quel che riguarda la progettazione dei nuovi edifici non c'è alcun dubbio che sia conveniente dal punto di vista economico progettare in modo antisismico i nuovi edifici. Questo perché in generale, anche eventualmente a fronte di un leggero incremento del costo iniziale della costruzione, che poi anche lì si tratta diciamo è un po' il progettista che determina la soluzione progettuale, e non è semplicemente diciamo la capacità del progettista è fondamentale nell'individuare soluzioni tecniche che sono adeguate e nello stesso tempo anche sì, diciamo convenienti dal punto di vista tecnico-economico. Però in generale si è ormai verificato, è un fatto consolidato, che il costo generalizzato della costruzione, quindi quello in cui si prende in considerazione non solo il costo iniziale, ma il costo dell'eventuale manutenzione e riparazione dell'edificio a seguito di eventi, ad esempio eventi sismici che possono aver luogo nel corso della vita di progetto della costruzione, in generale una progettazione sismica ben fatta fin dall'inizio diminuisce il costo generalizzato della costruzione. Certo. E tra l'altro questo poi evita questioni che sono anche diciamo non hanno a che fare con la vita umana, ma creano situazioni estremamente problematiche, come ad esempio l'impossibilità di utilizzare un ospedale, tanto per dire, a seguito di un evento che non fa crollare l'ospedale ma lo rende fondamentalmente inagibile. A proposito di questo le volevo chiedere, appunto, un edificio che ha subito gravi danni ma non è crollato, è proprio il caso dell'ospedale dell'Aquila, non bisogna poi tirarlo giù, non lo si può salvare, però sentiamo che altri edifici potrebbero essere recuperati. Le chiedo, questi edifici relativamente poco danneggiati li possiamo recuperare, ma anche mettendoli in una condizione antisismica oppure no? Sì, anche qui dipende molto dalle tipologie e dall'estensione del danneggiamento. Comunque ci sono delle tecniche che sono abbastanza consolidate adesso per quel che riguarda la possibilità di riparare dei danni e riuscire a conseguire poi anche un buon comportamento dell'edificio a seguito della riparazione, quindi un aumento, un incremento della sicurezza. Certamente in generale il consolidamento di una struttura esistente è sempre un po' più complicato, è soggetto a maggiore incertezza del progetto ex novo di una nuova costruzione, quindi è possibile riparare queste strutture, però bisogna farlo con una chiara comprensione del problema sismico e degli effetti che la tecnica di rinforzo può avere sull'edificio, cosa da non dare per scontata perché ad ogni terremoto impariamo qualcosa. Ad esempio dopo i terremoti del Friuli dell'Irpinia si era diffusa una certa filosofia di intervento sugli edifici esistenti, poi il terremoto dell'Umbria e Marche del 97 ha un pochettino messo in crisi alcune convinzioni, cioè sull'efficacia di alcune tecniche. Credo che anche in questo caso avremo da imparare qualcosa. Ecco, senta, però invece i famosi piani rialzati, le strutture che si aggiungono, lei cosa ne pensa? Vabbè, quello è sicuramente un grosso problema. Croce sopra, meglio evitarlo. Croce sopra, ma tipicamente sono cose che vengono fatte senza in realtà valutare con attenzione quelle che possono essere le conseguenze strutturali. Quindi sono cose in generale da evitare. La sopraelevazione di un edificio va fatta solamente se è stata fatta una valutazione estremamente attenta delle conseguenze strutturali, quindi sono operazioni da fare con estrema cautela, possibilmente nella maggior parte dei casi non farle. Senta, voglio chiudere con un'ultima domanda di tipo strettamente fisico. per spiegare delle cose ai nostri ascoltatori, credo di non sbagliare. Si pensa che l'edificio antisismico sia un edificio di grandissima solidità, invece a me viene in mente per esempio quello che si diceva negli anni 70 quando i francesi facevano quelle macchine avvitate, imbullonate, estremamente fragili, si rideva tutti e si diceva sono pericolosissimi. In realtà loro dicevano guardate che nell'incidente medio una macchina che si smonta tutta disperde l'energia e quindi è molto meno pericolosa di quelle che restano rigide. È vero che gli edifici antisismici devono essere agili, duttili, in modo da trasformare, no, questa energia della scossa di terremoto? Diciamo che è vero perché di fatto la risposta al terremoto da parte della struttura è una risposta, diciamo, a una richiesta di deformazione. Quindi il terremoto chiede alla struttura di deformarsi e se la struttura è capace di deformarsi senza rompersi, ha una in qualche modo a sopravvivere al terremoto. Quindi questa è, diciamo, in generale la filosofia del cosiddetto progetto duttile delle costruzioni. Tuttavia ci sono anche tecniche nuove, innovative, quali ad esempio l'isolamento sismico, una forma diversa, diciamo, di consentire questi spostamenti, queste deformazioni. L'isolamento è una situazione in cui praticamente si costruisce il nuovo edificio su dei dispositivi che sono appunto degli isolatori, che in qualche modo è come se non trasmettessero il moto del terreno alla struttura sovrastante. Il terreno si muove e la struttura idealmente resta ferma. Non è esattamente così, è una semplificazione. Sì, ma per intenderci, insomma, l'immagine è chiara. Guido Magenes, grazie e buon lavoro. Ringrazio. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Piccolo contributo di Mebius alla Pasqua, beh sì, stiamo per parlarvi di pulcini appena usciti dal loro uovo e cosa fa la scienza? Li mette subito a contare. Si tratta di una ricerca appena presentata che ha visto all'opera alcuni ricercatori dell'Università di Padova e altri del CIMEC, un nuovo centro dedicato allo studio della mente e del cervello di cui vi parleremo altre volte nelle prossime settimane perché è un luogo nuovo e importante nella ricerca italiana. Allora ascoltiamo Chiara Albicocco e i pulcini che contano. Si pensava fosse un pesce d'aprile, perché la notizia è stata annunciata dalla BBC il primo di aprile 2009 e ormai si sa che l'emittente si diverte in quel giorno a beffare gli spettatori con notizie un po' bizzarre. Nel 2008 realizzò un falso documentario su una sensazionale scoperta, i pinguini volanti, e quest'anno invece si è parlato di un pulcino. Italiano, lo specifichiamo subito, in grado di contare e di compiere semplici operazioni aritmetiche. Ecco, non è uno scherzo, è tutto vero. E io, se può contare qualcosa, vi anticipo che ho visto i video di questi esperimenti e vi assicuro che è realtà. I video saranno messi anche sul nostro sito www.moebiusonline.eu e anche i più scettici potranno toccare con mano. Comunque, il pulcino ha 4 giorni ed esiste davvero, ma non è né un genio né un fenomeno, ma ha solo manifestato un comportamento naturale. Un comportamento innato, di cui stasera parliamo in compagnia di Lucia Regolin, che è professore associato del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova. Intanto buonasera Regolin. Buonasera Chiara. Allora è tutto vero? È certamente tutto vero, non era un solo pulcino, erano dei gruppi sperimentali con i quali abbiamo condotto una ricerca che è stata pubblicata su una rivista piuttosto prestigiosa nel settore delle scienze biologiche, i Proceedings of the Royal Society. Senti Lucia, io ci terrei a far capire agli ascoltatori come sono avvenuti gli esperimenti, perché mi sembra carino, poi avranno la possibilità di vederlo anche in video e poi capiamo in realtà l'importanza dei risultati che avete ottenuto. Ok, allora noi da molto tempo che stiamo lavorando sul pulcino domestico come modello sperimentale e utilizziamo delle tecniche che sfruttano il fatto che i pulcini neonati sono soggetti al fenomeno dell'imprinting filiale, il fenomeno che Conrad Lorenz ha descritto così bene. Le famose oche di Lorenz, infatti. Dunque, noi abbiamo allevato il pulcino con degli oggettini tutti uguali, che per il pulcino nel giro di qualche ora, se allevato da solo assieme a questi oggettini, diventano dei compagni sociali. I pulcini sono disposti a cercare di fare di tutto per ricongiungersi con questi oggettini. Non lo abbiamo dimostrato noi, ovviamente. Questo fa parte, ovviamente, del concetto di imprinting filiale. Ecco, Lucia, scusami, per compagni sociali tu intendi i fratellini, la mamma e i fratellini. Normalmente in natura questo fenomeno serve a stabilire un legame sociale con la madre, la chioccia, e con i fratellini della medesima covata, certamente. E quello che noi abbiamo dimostrato è che se i cosiddetti fratellini, nel nostro caso erano le palline che contengono le sorprese degli ovetti Kinder, se il gruppo di fratellini si separa e ad esempio se ce ne sono 5, 3 vanno a finire dietro un certo schermo e 2 dietro all'altro, come vedrete nei video, e il pulcino è disposto a ricordare dove ce ne sono di più e appena può cercare di ritrovare e ricongiungersi con il gruppo più numeroso. Quindi ha un'idea della differenza tra 3 e 2. Dobbiamo specificare che il pulcino osserva tutti gli spostamenti delle palline che appunto rappresenta come fratellini o come la mamma chioccia, li osserva dall'esterno schermato, cioè all'inizio non si può muovere, soltanto in un secondo momento può scegliere se andare a destra o andare a sinistra. Certo, il pulcino si trova in una scatolina di vetro trasparente, lui cerca di uscire ma non può chiaramente, e all'esterno in una piccola arena ci sono due schermi, vengono poste le 5 palline e poi vengono fatte muovere 3 dietro uno schermo e 2 dietro allo schermo opposto. Quando viene spostata la scatolina, lui sceglie di andare dove ci sono 3 palline. Perché il pulcino fa queste scelte? Perché sceglie di andare nel gruppo più numeroso? L'idea è che il pulcino di questa età dipende per la sopravvivenza dall'essere in un gruppo e con ogni probabilità più numeroso il gruppo, migliore è la sua possibilità di sopravvivere. Quindi è un'abilità che è stata selezionata perché conferisce maggiori probabilità di sopravvivenza al pulcino che, dovendo scegliere, ha scelto il gruppo più numeroso. Il problema per i pulcini è che non hanno un sistema di termoregolazione autonomo, quindi dipendono dall'essere assieme per scaldarsi, e il problema ovviamente è cercare il cibo e anche la protezione che i compagni sociali offrono. Quindi una spiegazione di tipo evolutivo, se vogliamo dire. Ecco, poi c'è un secondo step, un secondo esperimento in cui mettete alla prova un pochino le abilità aritmetiche del vostro pulcino. Esatto, questo è l'esperimento cruciale, il terzo esperimento del nostro articolo. In questo caso tutto accadeva come abbiamo descritto per gli altri esperimenti, cioè abbiamo le 5 palline, i 2 schermi, alcune vanno da un lato e altre vanno dall'altro lato. Un esempio tra le condizioni che abbiamo studiato, 4 palline vanno a finire dietro uno schermo e una sola va a finire dietro all'altro schermo. A questo punto siamo piuttosto sicuri, il pulcino vorrebbe ricongiungersi con le 4 palline se liberato, ma non lo lasciamo andare. Cosa succede? Ah, non lo lasciamo andare, lo teniamo nella scatolina di vetro e gli mostriamo che 2 palline escono dallo schermo dove ce ne sono 4 e si spostano e vanno a finire a nascondersi dietro allo schermo dove ce n'era una sola. A questo punto il pulcino liberato va direttamente a cercare le palline dietro allo schermo dove adesso ce ne sono 1 più 2, cioè 3, e da questo comportamento possiamo dedurre che gli sono disponibili delle molto semplici operazioni di tipo aritmetico. Ha capito che sono state aggiunte, sommate all'unica pallina dietro lo schermo altre 2, e ha scelto con raziocinio. Diciamo che la maniera più coerente, più semplice e probabile per interpretare questi risultati è che l'animale formi una prima rappresentazione numerica di quanti elementi ci sono dietro ciascuno schermo e poi sia in grado di aggiornarla e questo aggiornamento guidi poi la scelta finale. I risultati che avete ottenuto che importanza hanno? Vi danno indicazioni su quella che è l'evoluzione, su quella che è l'etologia? Qual è l'importanza? Diciamo, ci sono molti diversi ambiti in cui questi risultati sono stati considerati interessanti, curiosi o addirittura importanti, principalmente a livello di neuroscienze. L'importanza sta nel capire come si sono evoluti i circuiti e come si sono evolute le capacità degli animali di computare e di avere a che fare con il numero. Possiamo quindi sostenere con un buon margine di sicurezza, in base a questi e ad altri dati che sono stati ottenuti negli anni recenti su specie animali, che gli animali hanno una indubbia capacità di manipolare e di effettuare delle operazioni e di reagire ai numeri, e questa capacità quindi si è evoluta anticamente e probabilmente le basi sono indipendenti dal linguaggio verbale umano. avere dei modelli come ad esempio il pulcino, che ha un cervello che è fatto in maniera completamente diversa da quella dei mammiferi, dell'essere umano in particolare, sì, ci consente di studiare, di avere un modello in più per capire come questi circuiti possono operare. Ha un nome il pulcino che avete utilizzato per gli esperimenti? No, noi abbiamo testato molti pulcini per questo lavoro. I pulcini arrivano ogni lunedì e ce ne sono nel nostro laboratorio centinaia. Va bene, Lucia, buon lavoro, e se ci saranno altri risultati un po' bizzarri ma divertenti e importanti come questo, tienici informati. Ti anticipo già che ce ne saranno, Chiara. Ciao. Continua la caccia alla materia oscura nell'universo. Una strana caccia, perché la teoria ci dice che senza di essa nulla sarebbe come è. Però non riusciamo a trovare tracce concrete di questa materia oscura. Un gruppo italiano è forse riuscito a catturare una prima preda? Ascoltiamo Maurizio Menis. Di cosa è fatto l'universo? Noi tutti abbiamo familiarità con la materia ordinaria di cui siamo composti noi e tutto ciò che riusciamo a vedere, stelle, galassie e pianeti. Ma dagli anni 30 del secolo scorso sappiamo che esiste anche l'antimateria e che anzi essa è prodotta dagli stessi fenomeni fisici che producono la materia in maniera del tutto simmetrica. Infine negli anni 70 si scoprì che la massa presente nell'universo, che si rivelava attraverso gli effetti gravitazionali, era molto più grande di quella attribuibile alla sola materia visibile. La situazione era a dir poco imbarazzante, perché mancava all'appello addirittura il 90% della massa dell'universo. A questa massa mancante i fisici hanno dato il nome di materia oscura, un terzo tipo di materia, quindi. Oggi i fisici stanno cercando di dare un volto a questo misterioso componente dell'universo. Ebbene, un importante passo avanti potrebbe essere arrivato da Pamela, un rivelatore di raggi cosmici made in Italy, potremmo dire così, che da 3 anni si trova a bordo di un satellite russo e che ha rivelato una grande quantità di positroni ad alta energia. I positroni sono appunto le antiparticelle degli elettroni. La comunità di fisici è in grande fermento, perché potrebbe trattarsi del primo segnale di materia oscura individuato fin qui, a parte appunto gli effetti gravitazionali. Ma potrebbe anche trattarsi di altro, per esempio di particelle emesse da una pulsar o da altri oggetti astronomici. Ci facciamo guidare tra le pieghe di questo dibattito da Pier Giorgio Picozza dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Università di Roma Tor Vergata, che è coordinatore dell'esperimento Pamela, che ha visto coinvolti per la verità moltissimi atenei e istituti di ricerca italiani. Buonasera Picozza. Buonasera. Dunque Picozza, intanto le chiedo subito di chiarirci che relazione c'è fra la materia oscura e questa antimateria che è stata rivelata da Pamela. Ecco, prima di tutto vorrei dire che una delle cose più importanti che Pamela vuole ottenere è anche la ricerca proprio dell'antimateria, cioè di vedere se esistono ancora tracce di un mondo simmetrico fra materia e antimateria. Ma è proprio questa capacità del nostro strumento di vedere l'antimateria che ci ha permesso di vedere questi segnali che possono essere segnali di materia oscura. In che maniera? Una delle teorie più accreditate in senso scientifico è la teoria che prevede la materia oscura è fatta da una particella chiamata neutralino, il quale quando si incontra con un altro neutralino si annichila, come si dice, cioè spariscono ambedue questi neutralini e al loro posto appaiono protoni, antiprotoni, antiprotoni e l'antimateria, elettroni, positroni, gamma, gamma, eccetera. Il nostro apparato è proprio fatto in modo di poter captare proprio queste particelle di antimateria che vengono da questa annichilazione. Noi abbiamo captato molti più positroni di quanti uno si attende da una produzione normale nel cielo dovuta all'interazione, allo scontro dei raggi cosmici, cioè di queste particelle di altissima energia che vagano nello spazio e che interagiscono con la materia che incontrano. Dunque, ci sono però altri fenomeni candidati a spiegare quanto voi avete osservato. Per esempio si parla di pulsar. Ci spieghi un po'? Ecco, quando è uscito fuori i nostri dati, i teorici, cioè i fisici che si cercano l'interpretazione dei dati che noi sperimentali vediamo, si sono orientati subito, per esempio, verso la materia oscura, cioè vedere se questi dati erano d'accordo con tutte le teorie. Chiaramente hanno continuato a vedere se possono essere interpretati anche in altri modi. Uno dei modi possibili è quello delle pulsar, cioè queste stelle di neutroni, le quali hanno un campo magnetico che ruotano in maniera molto veloce, e questo campo magnetico rotante tramite alcuni processi intermedi alla fine permette la produzione per esempio di positroni ed elettroni, e anche questi possono, diciamo, raggiungere. Ecco, mi pare questo uno di quei momenti in cui viene fuori molto bene il modo di procedere della scienza. Picozza, lei cosa dice? Ecco, io direi che questo è un punto veramente classico per vedere il modo di procedere la scienza. Un esperimento vede certi dati. La comunità scientifica studia questi dati. Prima chiaramente li affronta da un punto di vista che in quel momento sembra anche molto più affascinante e magari lo trovi in accordo, molto bene. Poi lo vede anche sotto altri punti di vista. L'accordo può essere più o meno buono, però esiste. Che fa la scienza in questo momento? Guardiamo proprio questa parte della materia oscura. Bene, esiste per esempio un altro esperimento chiamato Fermi-Glass, e quello esperimento può anche rivelare segnali simili ai nostri che vengono dai gamma. Al Gran Sasso, e qui purtroppo devo rivolgere il pensiero affettuoso ai miei colleghi che hanno perso in questi giorni anche la casa, gli affetti, eccetera. Ecco, questi colleghi che stanno lavorando al Gran Sasso sempre a materia oscura in un metodo di modo diverso. Non è solo. Quando noi avremo finito e avremo dato dei numeri, sia noi, forse Glass, LHC, il grande acceleratore, potrebbe andare a cercare questa particella, perché se sta nei limiti dell'energia, delle possibilità di questo grande acceleratore, lui lo deve produrre. Ecco come lavora la scienza. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz, vi ricordate l'interrogativo: perché la gomma cancella la matita? A volte devo dire che è divertente nei nostri quiz inventare le risposte sbagliate, a volte sono tremendamente sbagliate, per un po' però devono essere anche verosimili. Il fatto che la gomma sia acida e che la grafite sia grassa è una bufala di proporzioni colossali, ancora più paradossale che la gomma sbianchi la carta. No, la risposta giusta è: la gomma è appiccicosa e si porta via le particelle di grafite. Infatti, mentre cancellate si formano quei pilucchi di gomma che sono di un colore nero. Avete presente? Ecco, quella è la grafite asportata. Questa era la soluzione. Non sappiamo bene, anzi diciamocelo, molto poco come consumiamo energia. Non solo qui in Italia, è un deficit di conoscenza internazionale. Ve ne parla Barbara Gallavotti. Si parla molto di energia e ha ragione. La sua disponibilità è stata ed è ciò di cui si nutre il nostro benessere. Senza disponibilità di energia dovremmo vivere e morire in condizioni preindustriali. Ma quanto ne sappiamo dell'energia e di come viene distribuita? Su alcuni punti ne sappiamo molto, probabilmente troppo, tanto che non riusciamo a gestire la mole di informazioni per farci un quadro complessivo. Poco oppure nulla ne sappiamo invece su altri punti. Il problema è stato affrontato da Rajan Gupta. È un fisico teorico, esperto in particelle elementari e lavora presso i laboratori di Los Alamos. Però è anche ideatore del Global Energy Observatory, che è una sorta di progetto scientifico sull'energia di tipo wiki, cioè aperto al contributo di tutti. Lo abbiamo incontrato a Roma. Buonasera, Rajan Gupta. Può aiutarci a inquadrare subito il problema che l'ha spinta a creare il Global Energy Observatory? Today we have a major challenge of how we can provide. Oggi ci troviamo di fronte a una grande sfida. Come ottenere energia economica e pulita che non porti danno all'ambiente, alla salute umana e al clima. Questa sfida richiede un ripensamento su come l'energia viene prodotta e consumata. Ad esempio, siamo alla ricerca di nuovi modi per generare energia elettrica. Sole, vento, geotermico hanno però il problema di non essere sempre disponibili, mentre il sistema deve fornire energia sempre, anche quando il sole non brilla e il vento non soffia. Per trovare una soluzione, siamo obbligati a ripensare a tutto il sistema di produzione elettrica. Dobbiamo anche trovare nuovi modi per portare energia alle case. Di norma ci sono grandi centrali elettriche e quindi sistemi per portare l'energia dalle centrali a casa nostra. Ma queste reti di trasporto non sono sufficienti. Costituirne di nuove è difficile e male accettato dalla popolazione, e tutto ciò crea tensioni. Infine, in molti casi, le sorgenti di combustibili come gas, petrolio, sono in aree del mondo instabili. E per accedervi siamo costretti a scendere a compromessi politici, sociali e morali che non ci piacciono. In quale modo possiamo risolvere i problemi che lei ha indicato? Ci sono diverse strade. Una è fare costantemente ricerca, così da produrre una nuova tecnologia che ci consenta di fare tutto ciò che già facciamo, ma in modo più efficiente ed economico. Ad esempio, trovando modi più economici e meno inquinanti per ottenere energia dal gas. Dobbiamo però anche cambiare il modo in cui usiamo l'energia. Oggi ci sono molti sprechi, in particolare le centrali elettriche devono produrre un grande eccesso di energia per poterci garantire di averne in qualsiasi quantità desideriamo e per 24 ore al giorno. Ma se noi potessimo cambiare le cose ed avere, per esempio, una riserva di energia individuale in una batteria, potremmo stipulare un accordo con la compagnia elettrica, garantendo che, in caso di necessità, possiamo rinunciare alla loro fornitura per, diciamo, un quarto d'ora. Questo aumenterebbe drasticamente la flessibilità nella fornitura e conterrebbe gli sprechi. Simili idee sono attuabili, ma occorre disporre di molti più dati e di molta più capacità di analizzare il sistema di fornitura per essere certi di non rischiare che qualcuno vada incontro a blackout o a cali imprevisti. Per rispondere a queste esigenze, abbiamo creato il Global Energy Observatory, l'osservatorio globale sull'energia, pensato per mappare e mostrare al pubblico e agli esperti come funziona il sistema energia e come funzionano le sue componenti, dalle centrali alle miniere, agli oleodotti, alle navi che trasportano i combustibili. Uno dei vostri obiettivi principali è mettere insieme informazioni che oggi non sono disponibili, non perché siano nascoste o segrete, ma semplicemente perché non sono di facile accesso. Yes, so this, what we call the observatory, is a computer or internet-based system. Sì, quello che chiamiamo osservatorio è un sistema basato su internet e ha come primo obiettivo recuperare informazioni che esistono, ma che si trovano in formati digitali diversi e a volte in lingue differenti, e metterle tutte insieme in modo da avere una banca dati completa e visibile a tutti, sia agli esperti che al pubblico. Intendiamo anche segnalare come, usando strumenti quali Google Maps e Google Earth, sia possibile comprendere le relazioni fra le diverse parti della rete e capire come sono collegate, ad esempio, le sorgenti primarie come i pozzi di petrolio con le centrali, e quindi comprendere come i collegamenti possono essere migliorati per aumentare l'efficienza del sistema energetico. Naturalmente il link al Global Energy Observatory lo trovate sul nostro sito www.mebiusonline.eu. Chi sono le fonti delle vostre informazioni? Chi pensate che possa contribuire a fornire materiale al vostro osservatorio, il quale, come dicevamo, è una sorta di wiki dell'energia? I collaboratori che ci auguriamo di avere sono persone di diversi paesi che possono fornire informazioni riguardanti la loro area geografica. Ci sono ovviamente i dati che le compagnie rendono disponibili e che possono essere raccolti, ma desideriamo anche lavorare con istituzioni scientifiche. Producono ottimo materiale e ottime informazioni, ma purtroppo di solito il loro lavoro non viene raccolto in un unico posto e non diviene di dominio pubblico. La seconda cosa che vogliamo fare è creare un sistema di valutazione per essere certi che queste informazioni siano affidabili e rispondano ai criteri scientifici. Voi fate molto affidamento su sistemi informatici che fino a pochi anni fa non erano disponibili e che ora sono alla portata di tutti. Perché? Because the scale of information. Perché la quantità e la varietà di informazioni a cui pensiamo è così ampia da aver bisogno dei computer moderni. Prendiamo Google. Per darci le informazioni che chiediamo, fa affidamento sul lavoro contemporaneo di decine di migliaia di computer. La possibilità di far lavorare contemporaneamente decine di migliaia di computer non c'era fino a una decina di anni fa. Inoltre, strumenti come Google Earth permettono oggi a ogni studente di scuole superiori di capire in che punto del mondo si trova e come le cose sono in comunicazione fra loro. Questo non era possibile 4 anni fa. Per farsi un'idea analoga a quella che oggi un bambino può farsi in pochi minuti, ci voleva un ricercatore dotato di strumenti potenti. La gestione delle informazioni in molti diversi formati e la possibilità di integrarli in modo da essere accessibili al pubblico richiede una enorme potenza di calcolo, e questi strumenti sono essenziali. La cosa bella è che oggi siamo a un punto in cui questi strumenti sono disponibili e così noi possiamo analizzare un progetto come il nostro e avere un impatto significativo. A che punto è il vostro progetto ora? Il progetto è stato concepito circa 2 anni fa, ma il vero lavoro è cominciato nel giugno 2008. La prima cosa che abbiamo fatto, naturalmente, è stato costruire una griglia che permettesse al pubblico di capire cosa stavamo facendo. abbiamo cominciato a inserire i dati di alcuni paesi. Riguardano le centrali elettriche e stiamo inserendo dati sulle sorgenti di combustibili e sulle infrastrutture di trasporto. In 2 o 3 mesi contiamo di avere una prima versione pronta per poter essere arricchita da chi vorrà collaborare. Qual è il prossimo passo? Il prossimo passo è far funzionare bene lo strumento. Richiederà un altro anno, ma nel frattempo le persone potranno cominciare ad usare l'osservatorio. Penso che nel prossimo paio di anni il fatto di integrare altri pezzi di informazione, analizzarli e renderli facilmente disponibili, sarà una sfida significativa. Grazie a Rajan Gupta e buonasera. Thank you very much. Grazie molte. Vi dicevo poco fa che saremmo ritornati sui temi del terremoto. Tempo fa, sempre a proposito di antisismica, a Möbius vi abbiamo parlato di una bella ricerca italiana portata avanti da un gruppo del CNR di Trento. Si tratta di una casa di 6 piani con molto materiale in legno come appunto materiale di base. Vi vogliamo riproporre uno stralcio di questa intervista fatta da Barbara Gallavotti a Gabriele Bonamini, uno dei ricercatori del centro. Il centro si chiama Ivalsa. Questa casa ha subito un test molto importante di resistenza al terremoto che si è svolto nel più grande laboratorio giapponese. Un anno fa avevamo compiuto un esperimento simile su un edificio di 3 piani, quest'anno invece è di ben 7 piani l'edificio. Ecco, lei mi diceva che questo edificio dei 7 piani ha resistito a un terremoto di una magnitudo 7.2 che è analoga a quello che nel 1995 proprio in Giappone a Kobe provocò, oltre una terribile distruzione, anche 6.000 morti. E allora qual è il segreto della casa soffitta? Il segreto è la struttura interamente di legno che è formata da dei pannelli particolari, i quali messi assieme, uniti con dei connettori, costituiscono una struttura al contempo leggera, però anche appunto molto resistente, in grado di dissipare molta energia. I connettori come sono fatti? I connettori sono dei connettori di acciaio, sono dei viti, sono degli angolari che vengono dimensionati appunto per avere questo buon comportamento. E il legno cos'ha di particolare? Come l'avete lavorato? I materiali di partenza sono delle tavole che vengono unite assieme, incollate, aggiuntate in modo da formare degli strati che poi vengono sovrapposti a formare dei pannelli solidi resistenti. Per la presentazione di questo progetto in Giappone è stato fatto un documentario. Ascoltatene il passaggio finale. Entusiastiche le reazioni dei tecnici nipponici. Questo progetto italiano è destinato a cambiare il modo di costruire le case in tutto il mondo, ha detto Yoshimitsu Okada, tra i maggiori studiosi al mondo di terremoti. Vorrei fare ora un commento squisitamente scientifico, cioè miseriace, ma è possibile che dobbiamo portare queste cose in Giappone e poi non le facciamo qui? Siamo alle conclusioni di questa puntata. Vi ho già detto che sul nostro sito potete trovare una sezione, la vedete dall'home page, dedicata a uno specifico tema nel quadro generale delle tante cose che purtroppo stiamo ascoltando, vedendo e leggendo sul terremoto in Abruzzo. Il tema che abbiamo scelto è quello delle tecnologie oggi esistenti per costruire edifici antisismici e per rendere il più possibile antisismici quelli esistenti. È una sezione che può essere utile anche per chi vuole non solo informarsi individualmente, ma è anche interessato perché è in qualche modo coinvolto da questi problemi. Troverete anche dei video, uno in particolare mi sembra interessante e indicativo di quanto si può fare. È una casa a 2 piani disposta su una di quelle piattaforme vibranti che abbiamo oggi, in grado di riprodurre terremoti di qualunque intensità. La casa ha tante stanze, ogni stanza è arredata e in ogni stanza c'è una videocamera. Parte una scossa intensa e si vede bene, perché l'edificio è antisismico, che non vi sono danni particolari, nulla che possa causare vittime, al massimo feriti lievi. E il nostro sito, ve lo ricordo, lo raggiungete digitando per esempio in Google Möbius Scienza nella finestra di interrogazione. Cambio argomento per un veloce annuncio, sempre relativo al nostro sito. Vi ricordo che potete accedere a una sezione dedicata alle tesine per la maturità e naturalmente a partire da contenuti scientifici. Abbiamo voluto raccogliere un po' di idee e suggerimenti per queste tesine possibilmente basate sulla scienza. Questo è tutto per questa puntata di Möbius, che vi ricordo va in onda il sabato alle 20 e la domenica alle 23. Buonasera a tutti e a tutte e alla prossima.